Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Appela. E allora, eccoci qua, anche questa settimana, questo sabato, siamo andati a cercare due progetti sulla piattaforma Appela, tutti gli elementi li trovate anche sul sito di Radio 24, la pagina che si può fare è quella di Crowd Me Up, due progetti che cercano il nostro e il vostro aiuto, cari ascoltatori, con il crowdfunding. Le risorse tramite la rete. Allora, abbiamo la giuria, abbiamo la nostra giuria popolare, perché come da tradizione noi chiediamo agli organizzatori di questi progetti di raccontare i progetti, ma chi vota è una giuria popolare. La giuria ce l'abbiamo, tra poco li risentiremo. Pietro da Roma, gli auguro il buongiorno, l'abbiamo già sentito anche prima, ben ritrovato. Eccomi, ciao, buongiorno. Eccolo buongiorno. Qua, abbiamo anche Agostino da Milano, buongiorno. Buongiorno. Anche buongiorno. Lui lo ritroviamo e adesso cominciamo con il presentare il primo dei due progetti. Si chiama Moving TFF, io lo pronuncio all'italiana. Rassegna... è il Torino Film Festival, quindi è giusto TFF. Esatto. La rassegna cinematografica, tutti questi acronimi, la rassegna cinematografica itinerante che porta il Torino Film Festival nelle strade della città. Un mese di iniziative in movimento, appunto, come si dice in italiano invece che moving, libere e gratuite nei luoghi più insoliti a contatto diretto con le persone. Quest'anno gli organizzatori hanno grandi progetti, hanno lanciato una campagna di crowdfunding per raccogliere 10.000 euro. Ce ne parla Federica Dadone dell'Associazione Cultura Altera. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Cultura Altera. Scusate, Altera. Devo correggere. Ecco, sì, no, ma correggici pure, perché noi sbagliamo l'inglese, ma sbagliamo anche l'italiano. Pensavamo che ci fosse un accento anglofono e quindi abbiamo detto Altera. Allora, ciao, raccontaci tutto in un minuto, poco più, perché possiamo e dobbiamo sostenere questo progetto. Allora, il Moving è un festival innovativo che da 6 anni cerca di raggiungere nuovi spazi, nuovi pubblici utilizzando il cinema nella città di Torino. Le prime 5 edizioni sono sempre andate benissimo, abbiamo sempre avuto un'ottima risposta da parte della città, per cui per quest'anno abbiamo dei progetti di espansione insomma particolarmente interessanti, per cui vorremmo portare il cinema oltre che nelle periferie, come già facciamo, anche proprio in degli spazi inusuali in cui di solito il cinema proprio non arriva, per cui vorremmo rifunzionalizzare degli spazi come ad esempio le carceri nuove, che sono un ex carcere che si trova a Torino in Corso Vittorio, un supermercato, un'officina e una banca su cui stiamo lavorando. Non abbiamo ancora lo spazio preciso, ma abbiamo degli accordi in corso. E il festival è carino perché va a riprendere film del Torino Film Festival delle edizioni precedenti che sono stati poco distribuiti in Italia, mm-hmm. e che quindi le persone, se non li hanno visti al festival, non hanno avuto possibilità di rivedere. Il tempo è scaduto. Molto bello, quindi recuperate film recuperando spazi. Sì, esatto. Ah, al Festival di Cannes si discute delle nuove piattaforme Netflix e Amazon, film visibili solo sul web. Il regista, il presidente della giuria Almodovar, è un po' critico, come dice, film visti in sala, voi li volete portare nelle sale delle periferie, quindi un passo ancora più in là. Grazie a Federica. Adesso sentiamo l'altro progetto. Giurati, restate concentrati, vai col secondo progetto, che si chiama Assault on Freedom ed è una app unica nel suo genere che permette di imparare giocando con la storia, narrando cronologicamente gli eventi della storia, che per esempio vanno dall'arrivo degli alleati in Italia nella Seconda Guerra Mondiale alla liberazione di Monte Cassino. È che bisogna conoscere la cronologia, sì. È quello il difficile. Nel gioco si potranno rivivere assalti e battaglie, ma anche visualizzare filmati realizzati sui luoghi della memoria. Per poter sostenere lo sviluppo di questa app servono 5.000 euro, come ci racconta Antonio Russo, ideatore del gioco. Antonio, benvenuto. Buongiorno. Allora, il solito minuto di tempo, anche un po' di più, per raccontarci tutto di questo progetto, perché possiamo e dobbiamo sostenerlo. Bene, allora, siamo una società innovativa, come avete già detto voi, e questa app nasce proprio come sviluppo di un precedente gioco in scatola coperto da brevetto riguardante la battaglia di Monte Cassino, appunto, venduto già in alcuni punti vendita del nostro territorio. Abbiamo collegato già il QR code con all'interno del gioco in scatola, dove è possibile già visionare alcuni filmati. Quindi l'idea e l'unicità invece del gioco da Assault on Freedom in app riguarda proprio questo, cioè consiste nella realizzazione di filmati appositamente creati sui luoghi della memoria. Ulteriore elemento di unicità del gioco storico è che è la prima app che rievoca un avvenimento di così fervida importanza in Italia e lo trasferisce al mondo diffondendo ancora di più la conoscenza dello stesso per il nostro territorio così distruttivo. Ulteriore elemento è quello turistico, in quanto in alcuni momenti dell'anno attraverso comunicazioni verranno indette delle competizioni e chi raggiungerà determinati obiettivi nel gioco otterrà un soggiorno gratuito permettendo ai vincitori di visitare i luoghi della memoria con guida turistica di madrelingua laddove necessita e degustando i prodotti tipici locali. Va bene, stiamo sforando, quindi hai avuto il tuo tempo a disposizione per spiegare il progetto Antonio Russo Assault on Freedom. Allora andiamo con gli ascoltatori. I nostri giurati Pietro, Agostino e c'è aggiunto anche Max da Roma. Max, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Con lui parleremo magari anche dopo Crowd Me Up del suo intervento, se vuole lasciarci parole anche sugli altri argomenti della puntata. Pietro da Roma, che avevamo già sentito prima sulla questione dei migranti. Pietro, quale di due progetti ti ha convinto di più, la app che riguarda la storia o il Festival di Cinema Itinerante a Torino? Pur apprezzandoli entrambi, sinceramente propendo per il secondo, anche se più che come un gioco io lo vedo anche come un'app da sviluppare per esigenze didattiche, insomma, per rinnovare la scuola. Ecco, esattamente un po' il loro intento, la nicchia nella quale stanno cercando di crearsi uno spazio a Assault on Freedom. Bene, abbiamo il primo voto di Pietro Agostino da Roma, quale dei due progetti? Da Milano, scusa, Agostino da Milano, e il nostro ascoltatore che ha trascorso le sue vacanze 50 anni fa in un luogo proibito, tra l'altro, allora, un sacco a pelo. Tutti e due buoni, e propenderei per quello del cinema perché è troppo importante la memoria dei film. Perfetto, quindi siamo un voto pari. Beh, dai, così abbiamo un pareggio, tutto nelle mani di Max da Roma, che per quale dei due progetti voterai, Max? Allora, io anche se amo molto la storia, devo provendere sono interessato per il primo, per il cinema, perché stiamo facendo un progetto con Avollo simile. Va bene, quindi il cinema itinerante di Torino. Non indaghiamo sul tuo conflitto di interessi, anche perché ricordiamo che comunque nessuno dei progetti vince, nel senso che l'altro perde, quindi non lo trovate. Li trovate entrambi sulla piattaforma di Apple e potete andare a fare la vostra scelta. Noi ringraziamo Antonio Russo, Assault on Freedom, e Federica Dadone per Moving Torino Film Festival. Grazie per essere stati noi. In bocca al lupo, avete vinto entrambi in realtà. Ci risentiamo tra poco con Cloud Me Up la settimana prossima con gli ascoltatori. Tra poco 800 24 0024, dopo il traffico. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple.